Ricordiamo subito il nome dell'autore che stiamo mandando, anzi dell'autrice, Mrs. Shubi, potete trovarla su Jamendo e l'album si chiama Shubi, poco fantasiosa quindi diciamo per la scelta, però adesso andiamo a ascoltare invece dall'Italia, passiamo al Giappone con Graphics Grew. Thank you. traccia che abbiamo appena ascoltato si chiama Blue Seed, ricordiamo l'autore è sempre Graphics Groove, un giapponese che potete trovare anche lui su Jamendo. Noi in particolare ci siamo arrivati seguendo l'etichetta IDM e questa sera pensavamo di introdurre un po' la serata con un po' di musica un po' più tranquilla per poi passare alla seconda mezz'ora come al solito un po' più pesante. Come al solito ci chiedevamo se non vi ricordava un po' le seratine tipo Agatha questa musichetta, ma la mettono o no questa musica d'Agatha? We'll be right back. Ed andiamo ad ascoltare ancora qualche altra traccia qui di Graphic Gru. Quella che abbiamo appena ascoltato si chiama Yellow Watcher, la prossima si chiama Midnight Blue Jazz Drum and B. Radio Pirata 38, questo è Pump Up the Volume. Come tutti i sabati dalle 9 alle 10, ascoltiamo ancora un'ultima traccia da Graphics Groove, questo giapponese che abbiamo trovato su Jamendo, e poi passiamo ad altro. Thank you. Ecco, questa era l'ultima traccia di Graphics Groove, la traccia si chiamava Frosty Blue e d'ora passiamo a una rubrica all'interno di Pump Up the Volume che è All World Techno, dove manderemo una traccia di altri tempi e chi indovinerà il nome e manderà un'email all'indirizzo radiopirata38@inventati.org potrà vincere fantastici premi e codiglion. A voi la traccia. Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Who is Elvis? Che dice io c'ero. Traccia del 91, chi se la ricorda non può non ricordarsi il nome. What is one for mine? What is one for mine? What is one for mine?

questa finiamo l'angolo di Old World Techno, anche detto Antigaglia e Petrella, e andiamo ad ascoltare le altre tracce che avevamo in programmazione per questa sera. Tracce di quest'autore che si chiama XNDL, viene dalla Germania, anzi non viene, lui sta là, e adesso... Dicevamo che appunto lui sta lì in Germania e che ha anche un sito, noi l'abbiamo raggiunto sempre tramite Jamendo, ma lui pare che abbia un suo sito dove si autodistribuisce e dice pure che ha iniziato la sua attività nel 96 e il sito in particolare è http://www.offbeaters.de. E lui, vi ricordiamo che si chiama XNDL. L'album che stiamo ascoltando si chiama Bewusstlos. La traccia che abbiamo ascoltato prima si chiamava Landlung e quella che stiamo ascoltando adesso si chiama Extraterrestrisch. Un altro con i nomi difficili da farvi ascoltare, andiamo avanti con la prossima traccia di quest'album che si chiamava Bovlos Bevustlos. Album che si chiama The Bootlost, occhio a ripetere un po' di volte che poi iniziate a dire come sono scemi, e la traccia che stiamo ascoltando si chiama Raus e niente, poi ascolteremo un altro autore sempre pescato da Shaman. Yeah, adesso abbiamo trovato qualcun altro con dei nomi strani da pronunciare e da proporvi questa sera. Mentre finiamo di ascoltare XNDL dalla Germania, passiamo invece a un attore che viene dalla Federazione Russa. No, non viene nemmeno lui, anche lui resta lì, nel senso che l'abbiamo pescato fra gli autori dalla Russia. E mandiamo un album chiamato Cthulhu Core che promette bene e vediamo se ha ragione. Come vi ricordo, noi peschiamo a volte la nostra musica dal web, così potete intervenire e dirci se volete avere problemi come noi a caricare la musica, oppure invece di farlo come tutti gli altri. Non affidatevi mai alle risorse sul web, perché potrebbero impallarsi da un momento all'altro. E parlavamo quindi di Canopy Games, natore della Federazione Russa. L'album Cthulhu Core, un miscuglio di jazz, electro, breakcore, metalcore. E vabbè, sentitelo un pochino voi, piano piano. Evidentemente qualche problema con la connessione, ora vediamo se va tutto bene, pare che sia partita. I nostri potenti mezzi dispongono di connessioni a vapore, si disperdono nebulizzandosi nell'aria. Che finiva la traccia, non ci si può addestrare un attimo. E state ancora ascoltando Pump Up the Volume, che non si è giocata al cervello, ma sta esplorando le novità sempre che si trovano in giro fra l'ambito delle autoproduzioni, la musica indipendente, chi prova a fare musica per conto proprio e a spargerla in giro attraverso internet, usando licenze che permettono la libera diffusione, riconoscendone la paternità agli autori. In questo modo un po' chiunque può ascoltare quello che gira per il pianeta. E come voi potete sempre ricevere roba fresca tutti i sabati dalle 9 alle 10 su Radio Pirata 38 con Pump Up the Volume. qui le tracce sono corte, la connessione va e viene, non si capisce se va a scatti o se è cambiata traccia. No, era cambiata traccia. E oltretutto poi sì, non si può sentire, infatti così in chiusura andiamo allora ancora alla ricerca di qualcosa di sensazionale con i nomi strani. Come dice anche il nome di questa traccia, che si chiama Senseless, appunto non c'ha senso, non si capisce che è questa roba che stiamo ascoltando. Comunque apprezziamo l'impegno e passiamo ora a un altro album che abbiamo trovato sempre qui nei dintorni. E vediamo quest'altro autore cosa ci propone. Lui si chiama Petit Lutin. Viene dalla Francia, come si intuì dal nome un po', e l'album si chiama TS6, Tacchi e Scarpe. Particolare, sicuramente almeno si capisce qualcosa. E mentre stiamo per chiudere ascolteremo ancora qualche altra traccia e non vi interrompiamo il fantastico automatico, vi lasceremo con lui per tutta la notte. Noi vi aspettiamo anche stasera, per chi vuole venire, a tutti e tutte al ZK, c'è una bella serata di Bocchesi. Batman, who can't draw? La traccia che stiamo ascoltando si chiama Rizona, è quella che ascolteremo immediatamente dopo, si chiama Tripadonf, chissà, vabbè, chissà. Noi invece ne ascolteremo giusto un'altra e poi vi lasceremo. E vi diamo poi quindi l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 9 alle 10 su Radio Pirata 38, qui, che potete raggiungere, vi ricordo, tramite il link radiopirata38.noblogs.org. Vi ricordo, per chi vuole partecipare al quiz della rubrica Old World Techno, che l'indirizzo email è radiopirata38@inventati.org. Ricordiamo ancora una volta che quello che state ascoltando, l'autore si chiama Petit Lutin e l'album invece è TS6. E va bene, quindi con questo concludiamo perché potrebbe andare avanti ancora per 11 minuti e 50, 49, 48, quindi chiudiamo così e piano piano vi riportiamo alla candida musica del nostro automatico composto di tutte le autoproduzioni e le musiche indipendenti che abbiamo trovato in giro e che ci portano i nostri contatti. Tanti auguri all'automatico e noi usciamo, ci salutiamo, alla prossima settimana.